Io scrivo malinchiostro e sporco, levatemi questa merda di dosso. Non cerco un posto, come un buon italiano vado al voto, anche se ho la fame o la miseria. Mentre molti stronzi parlano seduti da una sedia, a me alle 6 del mattino suona la sveglia. Qua tutto è ridicolo, mi attende una giornata di duro lavoro per qualche spicciolo. Nessuna storia organizzata, qua si vive la giornata. I progetti sono catastracia, la realtà è fatta di complotti. Vittime di un paese dove tutti sono corrotti, carabinieri e poliziotti. Ho la fame dentro agli occhi, le righe danno forza a questi giorni vuoti. Microfoni aperti portano luce a questi volti. Non credo in niente, credo in me, alla mia gente. Credo che la strada è un canto che viene scritto e cancellato con il pianto. Credo in uno sguardo stanco, credo nella vita di un santo. Qua la vita è lama e mi taglia se manco. Devo lottare per andare avanti, anima e spirito, uno fra tanti. Non ho le ali per volare, mi resta un microfono per cantare questa rabbia popolare. Ho la forza di gridare per farmi ascoltare. Italiani del bel paese, il mondo va a puttane, noi siamo le spese. Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco. Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco. Rima stratosferica colpisce chi non merita. Sopra ogni ordigno ci trovo stelle e strisce degli Stati Uniti d'America. Rima tutto mondo rotondo, terra sferica. Inchiostro sporco come la valuta sporca di una società venduta, non voluta, industrializzata, globalizzata, che non mi aiuta. Voti comprati, volti toccati, toghe di magistrati. Applicano legge a guinzaglio come cani ammaestrati. Sto con chi la bella vita può solo vederla. La bella vita mi sta a fianco ma non posso averla. Qua se alle spalle si chiude un portone, davanti si apre quella della cella. Auto blu di rappresentanza, divise d'ordinanza, impugnano armi d'ordinanza. Mercenari per cui conta solo il salario, alla verità non danno importanza. Noi microfoni armati, in strada come in stanza, sui quattro lati microfoni aperti, rimari concreti. Abbattimento di divieti e pareti, ho i miei concetti, ho i miei progetti. Non seguo la filosofia del Signore, non credo nei preti. Tutto sotto controllo, sotto intercettazione. Perizia alla mano, punizione all'intenzione. Ronde di quartiere, uguale cagacazzi per vocazione. Ma perché non vi cercate un mestiere invece di rompere i coglioni alle persone? Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco. Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco. Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco. Prendo quello che vedo, sento e faccio folle a blocco. Prendi per buono quello che scrivo, ho rap d'inchiostro sporco.